Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa. Disfrútala. Divina, attaccati alla felpa. Mi salutavi da quella finestra. Facevi ciao ciao ciao con la mano. Io in mente al breakdown. Tu sorriso amaro, ti dico un segreto. La mano all'orecchio. Tu lo ripeti, fai specchio riflesso. La tua lingua è una Smith & Wesson. Spara e fa bla bla bla. Sembra un duello alla Sergio Leone. Come in un western tra le persone. Hai messo play, ma ho fatto game over. Stavo tritato a via del tritone. Ehi, sesso, carta, far bice. Allergie tue, ex su Gesù. Eccio, eccio. Ma tu lo sai che la mia vita con te non è mai stata così. Tu lo sai che la mia vita con te non è mai stata così.